Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ha per inizio la prima eclettica dell'anno, la prima eclettica del 2008, in una settimana che è forzatamente corta, esattamente come la scorsa settimana, due soli giorni di eclettica, il giovedì e il venerdì. La prima di giovedì 3 gennaio, la seconda di venerdì 4 gennaio. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com nel caso abbiate qualcosa da dirmi o nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera di questa trasmissione in modo da riceverne la playlist, e anche su myspace.com/eclettica. Lì potete lasciare messaggi che tutti hanno la possibilità di leggere. In una giornata dal cielo coperto ma luminosa, qualche minuto prima delle 4 pomeridiane del 1 aprile 1920, un critico straniero ha fatto rilevare che molti romanzi, per esempio tutti quelli tedeschi, iniziano con una data, ma solo gli autori russi, in virtù dell'originale onestà della nostra letteratura, tacciono l'ultima cifra. All'altezza del numero 7 di Tannenbergstrasse, in un quartiere occidentale di Berlino, si fermò un furgone per traslochi, molto lungo e molto giallo, aggiogato ad un altrettanto giallo trattore, affetto da ipertrofia delle ruote posteriori e con le forme impudicamente esposte. Sulla fronte del furgone si scorgeva la stella di un ventilatore e lungo tutta la fiancata correva il nome di una ditta di traslochi, scritto in cubitali lettere turchine, ognuna delle quali, compreso il quadrato di un punto, aveva il bordo sinistro profilato di nero, disonesto tentativo di penetrare nella dimensione successiva. Questo era l'incipit de Il Dono di Vladimir Nabokov. Pascal wage wages, it's on Pascal's wager we send Sergeant Major to fight. It would be nice if we took his triangle and we could find new angles more violent and wonderful. I was thinking of saving the animals, but first we save people, not animals, just 'cause they're almost as rare as love through marriage. Do you sometimes wish that your siblings were miscarried? And people made evil, we decide what it is and decide what it's not. You do things illegal, you can be pretty sure that it would be allowed somewhere else, but we're happy people, so there's nothing wrong with the state of things. If it's making you happy, then there's nothing wrong with the state you're in. We got people that shout down the state, and they demand justice. Justice as fairness or truth, as confused as the next politician who tries not to lie in their impossible mission. For truth to be told, I think most can cope with broken relations to absolute nations above. When you think that it's love that you bought, it's no longer a mystery. She was so nice to me, and people made evil. We decide what it is and decide what it's not. If you do things illegal, sure that it would be allowed somewhere else, but we're happy people. My horse has won. My own son. It's a woman, right? I knew it. I have seen that look on a man's face a thousand times all across the country. Well, all I can tell you, friend, is you'll get over her. Oh, Clara is one in a million. One in a billion. One in a Googleplex. The woman of my dreams, and I lost her for all time. Taking over hearts, all together now. Quest'oggi, questa settimana, Eclettica si è aperta con Friars, un nome che impareremo a conoscere, ne sono sicuro, in questo 2008, un nome che sentiremo spesso, quello del giovanissimo 18enne londinese compagno di squadra dei Cajun Dance Party in arrivo con la sua prova d'esordio, dal quale sono andato ad estrarre Happy. Per poi passare invece a The Ghost Station, formazione newyorkese che ritorna con All Together Now, brano che sicuramente ricorda nei suoi passaggi quelli degli Oasis, per proseguire con un album che già abbiamo ascoltato veramente tantissime volte. Si tratta di Mondo Madre, quello che è l'esordio dello pseudonimo Nano, ma non è assolutamente un esordio, perché dietro questo album, dietro questo pseudonimo, si nasconde Emanuele Lapiana, già dietro l'avventura COD. Lo riprendiamo con un brano diverso rispetto alla canzone di Cemento Armato che tante volte è comparsa nelle playlist di Eclettica nei mesi scorsi. Infatti facciamo un passo indietro, dalla traccia numero 5 andiamo alla traccia numero 4 delle 14 totali. Si tratta de Il Nano Svizzero. Sono in ritardo. Che cosa c'è? Sono in ritardo. Che conobbi quella donna, quella Matilda, durante il mio primo autunno di emigrato a Berlino, all'inizio di due segmenti di tempo, gli anni 20 e gli anni 20 di questo schifo di vita. Mi avevano appena trovato un posto di istruttore presso una famiglia russa che non era ancora riuscita a cadere in miseria e che viveva dei fantasmi di antiche abitudini pietroburghesi. Non avevo precedenti esperienze nel tirar su bambini, neanche la minima idea di come parlare o comportarmi con loro. Erano due ragazzini. Al loro cospetto provavo un impaccio umiliante. Questo era l'incipit de L'occhio di Vladimir Nabokov. I can assure you, sir, there are other women. I have peddling this barbed wire all across the country has taught me one thing, certain. It's that you never know what the future might bring. Well, the future, oh, I can tell you about the future. Made of smoke and a fruit. Dopo la nuova Down My Spine da parte dei Demo Gematics, è stata la volta di Iron & Wine, che ha appena chiuso con Pagan Angel and the Borrowed Car. E proprio questo brano e l'album da cui è estratto mi hanno fatto partire un pensiero che ora rendo in parole. Si è appena chiuso il 2007 e io ho deciso quest'anno, a differenza per esempio dell'anno scorso, di non fare una classifica dei migliori pezzi o dei migliori album dell'anno passato. Per esempio Iron & Wine molto probabilmente ci sarebbe potuto finire lì dentro. Ho preferito però non fare niente di tutto questo, ho preferito proseguire con la trasmissione così come è andata per tutto il resto dell'anno, senza fare una puntata dedicata alle migliori canzoni di un anno, e non vi ho voluto coinvolgere in tutto questo. Però c'è una cosa strana che mi è successa: mi sono reso conto che il brano che a me rimarrà in testa, quello che mi ritroverò a fischiettare di più e che legherò al 2007, è un brano che stranamente ho trasmesso pochissimo, forse una volta, o forse addirittura mai. Che strane queste cose, molte volte i miei ascolti sono anche i vostri ascolti, perché io vi costringo a farli, in altri casi invece rimangono ascolti miei privati, quasi non volessi perderli condividendoli con gli altri, però mi sembra il momento di farlo.